e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tutto è iniziato lunedì mattina quando una vera e propria bomba d'acqua si è rovesciata sulla Sardegna, forti temporali, piogge abbondantissime che hanno provocato esondazioni e imponenti allagamenti. In 12 ore sono caduti sull'isola 450 millilitri di pioggia. In un'ora è venuta giù la pioggia che cade in 6 mesi, come ha sottolineato il sindaco di Olbia, l'area più colpita. Ci sono le 16 vittime, ancora un disperso, tantissimi feriti, migliaia, gli sfollati ospitati in questi giorni negli alberghi o presso i parenti. Alcuni hanno iniziato a fare ritorno alle proprie abitazioni, ma attualmente si parla ancora di 1.700 persone fuori casa secondo la Protezione Civile e 2.000 secondo la Croce Rossa. Le cifre, altre cifre, 1 miliardo di danni alle imprese secondo la Coldiretti, i 20 milioni di euro stanziati dal governo per l'emergenza Sardegna possono arrivare fino a 200 milioni, c'è un emendamento dei relatori alla legge di stabilità che prevede 30 milioni per l'emergenza, aggiuntivi rispetto ai 25 milioni stanziati ieri dal CIPE, con un massimo di altri 150 milioni da parte dell'ANAS per strade e ponti, ma è ovvio che i danni sono molto superiori. Sì, e molte zone sono ancora senza elettricità, telefono e internet in tilt. Ieri e oggi lutto regionale indetto dal governatore Cappellacci, si sono svolti i funerali di 15 vittime del disastro. E oggi sono in programma a Nuoro le esequie di Luca Tanzi, il poliziotto morto mentre scortava un'ambulanza. Ieri ad Olbia si sono celebrate le esequie delle 6 vittime cittadine alla presenza del ministro per l'integrazione Cécile Kyenge. La Sardegna sta vivendo questa emergenza, ma anche il resto dell'Italia guarda e partecipa. Con il cuore, inteso con una partecipazione emotiva, una vicinanza. E con i denari, perché è già partita la gara della solidarietà, se si può parlare di gara in queste circostanze, e delle reazioni del cuore e dei denari di fronte a questi eventi parleremo nella puntata di oggi. E allora, subito il numero verde, 800 24 00 24, rivolto agli ascoltatori. Avete vissuto un'esperienza di questo tipo, in prima persona, un terremoto, un'alluvione? Ricordiamo il Veneto, la Liguria, i terremoti in Emilia, l'Aquila, solo per fermarci agli ultimi anni. E allora anche il nostro numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. Se avete vissuto questi momenti come vittime o come volontari, vi è stata raccontata in famiglia un'esperienza del passato? Oppure se l'avete seguita sui media, dai racconti di televisioni, radio, giornali, raccontateci, proviamo a confrontarci, raccontateci l'immagine, il suono, il viso che vi è rimasto impresso e che è acceso dentro di voi pensieri e riflessioni. O se vi siete fatti anche portatore di un altro messaggio di solidarietà, che impegno vi siete assunti anche economico, con un aiuto concreto come volontari o come invio di fondi. Essere e benessere. Vogliamo, Deborah, presentare subito gli studi, gli ospiti che abbiamo in studio con noi? Volentieri. Allora, abbiamo il dottor Leonardo Cerri, che è consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Disaster Manager ed ex direttore della Protezione Civile del Comune di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Qua accanto a me lo tengo vicino, il dottor Davide Scotti, psicoterapeuta che lavora nel contesto delle emergenze. Buongiorno anche a lei, dottor Scotti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dottore. Riflettevamo un po' sui dati e il dottor Scotti e il dottor Cerri hanno partecipato, no? Avete proprio fatto delle esperienze in zone, in luoghi colpiti da catastrofi naturali, dal terremoto all'alluvione. E dottor Scotti, noi dalla parte del cuore vorremmo così riflettere, pensare alle persone che si trovano in questo momento con il fango, l'acqua, si sentono completamente abbandonate da quelli che sono i riferimenti quotidiani, no? Perché non ci sono più, vivono in una condizione di grande disagio. Forse è immaginabile come una persona possa sentirsi quando i punti di riferimento vanno via e quando il futuro diventa completamente incerto, il presente così doloroso. Ma voi su queste persone avete lavorato molto e avete capito che è importante lavorare sul presente per dimostrare a queste persone che il futuro c'è, anche se in queste situazioni così drammatiche sembra che tutto finisca nell'immediato. Sì, certamente una persona che perde tutto in questo momento si trova in difficoltà nel sentire che può pensare a un futuro e pensare di poter ricostruire la propria casa o il proprio lavoro, per esempio. Quindi sicuramente sono momenti difficili, momenti di ansia e momenti in cui si fa fatica anche solo a pensare di avere una un'idea possibile di quello che sarà. Quello che ci siamo accorti lavorando poi nei contesti di crisi è che la comunità diventa una risorsa, certo, in questo senso, diventa la possibilità di sentire nel mio vicino qualcheduno che può darmi una mano. Quindi le persone che oggi in Sardegna stanno vivendo questo momento difficile tornano a casa e vedono una casa rovinata, vedono i propri beni persi, sparsi anche nella strada, e quindi sicuramente fanno fatica ad immaginarsi qualcosa di buono. Però in questo senso c'è la persona che lì è accanto, c'è il volontario, come parleremo dopo, c'è anche il vicino e la comunità che diventano una risorsa. Quindi la calamità distrugge ma inevitabilmente unisce. Esatto, sì. E può unire. Noi vogliamo dare voce naturalmente alle persone che hanno vissuto in prima persona questi eventi. Parlando con il dottor Scotti, lei mi diceva: io mi aspetterei un intervento di chi ha vissuto ad esempio l'alluvione in Liguria. Esatto. Perché sì, questo? Mi immagino e spero che qualche persona di Vernazza possa contribuire alla trasmissione di oggi, perché, come dicevamo prima, il futuro diventa incerto e forse chi ha vissuto prima l'evento dell'alluvione può testimoniare che si va avanti, può testimoniare che ce la si può fare, e quindi chi ha vissuto l'evento di Vernazza può raccontare agli altri concittadini sardi che ce la si può fare. 800 24 00 24, stanno già arrivando i messaggi al 349 238 6666. Deborah, vogliamo leggerne alcuni? Direi che ne leggo qualcuno. Intanto volevo rassicurare Marco, perché chiede se possiamo spiegare come vengono gestiti i soldi donati ai numeri di beneficenza come SMS, ed è questo il tema che affronteremo nella seconda parte del programma. Massimo ci racconta che aveva 2 anni quando c'è stato il terremoto del Friuli del 76, abitavo a Venzone, ovviamente ricordi zero, quindi tutto per sentito dire dai miei e da amici più grandi. Poi con la Sardegna, Manuela da Cuneo, sono tornata con i ricordi all'alluvione del 94 in Piemonte, l'ho vissuta sulla pelle e come volontaria non si dimentica, sembra ieri purtroppo. Infine un ultimo: ho visto tante tragedie in TV, ma questa volta vedere su internet la foto della casa di mia nonna sotto 1,5 metri d'acqua ti sciocca, ci racconta un ascoltatore, poi pensi a chi ha perso la vita, ti si stringe il cuore e dici solo cose, sono solo cose ma anche memorie. È vero, sottolineiamo questa parola memoria, su cui torneremo, perché ci sono delle immagini, delle emozioni, un forte disagio che si imprime nella mente e nel cuore di chi sta vivendo questa emozione, che poi ritorna a lungo. Ne parleremo tra poco, ma vogliamo dare, Deborah, subito la parola a Suor Luigia, che eccola, è arrivata, benissimo, è in linea con noi, è direttrice della Caritas diocesana sì, di Tempio Ampurias. Suor Luigia, buongiorno, ci sente? Buongiorno. Allora, so che non sta bene, ha accettato di intervenire lo stesso per qualche minuto, noi proprio per questo motivo la ringraziamo doppiamente. Vorrei che ci raccontasse che cosa sta succedendo in questi minuti nel luogo dove lei appunto opera, proprio per la sua attività. Questa diocesi è l'area dove si è registrato il maggior numero di vittime. Ci vuole raccontare subito di che aiuto avete bisogno e che aiuto state dando materialmente in questo momento alla popolazione del posto? La popolazione ha soprattutto bisogno di prossimità. Noi stiamo girando soprattutto nelle case e per portare anche un sostegno spirituale, diciamo, un senso di prossimità, perché che fa molto bene alla gente, però portando le cose che servono. Abbiamo fatto tantissime squadre, ci sono state assegnate delle vie dove intervenire, siamo in costante collegamento con il centro di crisi, insomma. Hanno bisogno di prossimità, sì. Lei diceva, come stanno reagendo i suoi concittadini, Suor Luigia? Reagisce molto, molto bene, dicono grazie a Dio siamo vivi, quindi difficilmente vogliono, se possibile non vogliono andare via dalle case, perché stanno da giorni pulendo, togliendo acqua, fango, c'è gente che ha perso tantissimo. Molte persone, qui è andata via la macchina, quindi il mezzo di lavoro. Comunque la gente sta reagendo molto bene, molto, e c'è molta solidarietà, certo, anche tra la gente. Che cosa intende, ricordo, Suor Luigia, sì, quando lei dice prossimità? Significa andare a parlare con queste persone, sostenerle, sì, con una parola? Andare a aiutarle concretamente, a parlare con loro, sentire perché siccome l'area è abbastanza vasta, quindi non tutte sono state raggiunte, quindi quando vedono che ci si interessa a loro è molto importante. Poi andando sul posto si capisce sia la tragedia che c'è stata, che veramente è qualcosa di terribile, sia anche le cose di quella gente concretamente. Certo. Sor Luigia, facendosi prossimo, andando a trovare le persone colpite, c'è una storia, un viso che le è rimasto particolarmente impresso e che ritorna nella sua mente? Visi tantissimi, un senso anche di impotenza. Visi moltissimi, gente piena di fango, ma poi il viso che mi è rimasto più impresso è la disperazione, il dolore della gente che ha perso i propri cari. Sor Luigia, no, tra l'altro sa che come sempre capita in queste circostanze poi partono le polemiche, le contestazioni. Voi sapevate che stava arrivando tutto questo? No. No, Olbia si è allagata altre volte, ma in questo modo no. La gente dice, sembra che sia arrivata una bomba d'acqua, quando è come un fiume che ti entra in casa e che in un attimo, se non ti porta via, se riesci ad andare al piano di sopra, ma porta via il resto. Vorrei coinvolgere grazie Suor Luigia, la lasciamo perché ci rendiamo conto sì, che è molto provata. Grazie Suor Luigia. Grazie della solidarietà anche della gente, grazie a tante persone che si stanno dando la loro disponibilità e grazie agli aiuti che stanno arrivando. Suor Luigia, un abbraccio. E grazie anche a lei grande. Per tutto quello che fa. Dottor Cerri, lei ha sicuramente colto dei dettagli nel discorso che ci ha fatto Suor Luigia e io vorrei concentrarmi essenzialmente su due, sull'azione dei volontari e sul fatto che forse Suor Luigia alla domanda di Deborah che le ha chiesto voi eravate state avvertite ci ha detto no, non sapevamo nulla. Lei maneggia, no, queste situazioni e lo ha fatto in diverse occasioni, quindi sia per i volontari sia per le emergenze. Sì, allora, intanto il ringraziamento va a 1.200.000 volontari che ci sono in tutta Italia, che grazie a loro le emergenze vengono veramente affrontate in un modo professionale, ma anche integrato rispetto a tutte le esigenze che ogni singolo territorio colpito da crisi ha come necessità. È chiaro che non ci si improvvisa volontari, quindi l'importante è avere l'adeguata formazione, l'adeguata esercitazione per saper cosa fare in caso di criticità come peraltro anche queste. È chiaro che la macchina dei soccorsi è una macchina molto elaborata, molto complessa e che ha necessità di alcuni tempi di risposta per organizzarsi e poi per ovviamente intervenire. Sull'aspetto dell'allertamento in Italia ormai da molti anni è ben chiaro qual è il meccanismo. Il meccanismo è che in base a previsioni meteorologiche dalle 48 alle 72 ore antecedente un evento viene diramato dalla Protezione Civile Nazionale uno stato cosiddetto di criticità alle regioni e le regioni a loro volta devono diramarlo a livello locale, quindi ai comuni, alle province, a tutte le strutture periferiche. Ecco, ma se anche questo messaggio, tra l'altro adesso lo dicevo prima con Suor Luigia, appunto, si sono aperte subito le porte delle polemiche, se anche questo messaggio di allerta fosse arrivato capillarmente in tutte le case, mi chiedo che cosa avrebbero potuto fare gli abitanti di Olbia e dintorni, sarebbero scappati, non lo so, dottore, che cosa ne pensa? E poi magari interveniamo anche sul tema del volontario per capire come si struttura una figura di questo tipo che interviene in queste emergenze. Sì, allora... Come diceva, o meglio come dice, come ha sempre detto il presidente Zamberletti, la protezione civile esiste se esiste a livello comunale. Quindi la piramide va esattamente rovesciata, non è il governo centrale che fa che dà la prima risposta, ma è il comune che dà la prima risposta. Quindi il concetto è che ogni sindaco debba avere una consapevolezza del ruolo e della problematica. Questo significa avere adeguati piani di emergenza, vuol dire informare la popolazione. I piani di emergenza vanno fatti, ma non vanno tenuti nei cassetti, cioè vanno esattamente fatti conoscere alle persone, perché le persone devono sapere che se in caso di pioggia al di là di eventi eccezionali come può il terremoto, questo, certo. Come il terremoto, che non è prevedibile, ma certo. Eventi eccezionali come questo, altre situazioni, la gente deve sapere dove deve ritrovarsi, quali sono i punti di raccolta sicuri. Certo. Il problema è che queste sono anche aree con densità abitativa molto, molto relative. Insomma. Continuano i messaggi al 349-238-6666 e anche le chiamate all'800-24-0024. Cosa vorremmo fare oggi proprio tutti insieme? Aprire i microfoni e confrontarci, perché noi tutti stiamo guardando questa tragedia da lontano e ci confrontiamo con le emozioni che le immagini e i racconti ci danno e facciamo, no, i nostri, dottor Scotti, facciamo delle riflessioni, magari consideriamo che il problema che avvertiamo nel quotidiano è cosa piccola rispetto ai problemi con cui si misurano le persone che in questo momento sono alluvionate in Sardegna. Già anche questo è una ricaduta. Beh, è una ricaduta che forse può anche aiutare a sentirci più pronti a gestire le fatiche quotidiane in questo senso, quindi forse guardare a quello che è successo in Sardegna può anche essere utile per ricalibrare il nostro modo di guardare la realtà e forse riuscire a goderne un po' di più. È innegabile, questo anche Suor Luigia lo diceva, che gli esseri umani guardandosi in faccia vivono le emozioni degli altri. Quindi è inevitabile che guardando un servizio, guardando una foto, io senta il dispiacere delle persone che in quel momento soffrono. La questione è un po' riuscire a farsene qualche cosa di questo dispiacere. Certo. Quindi può essere sicuramente la donazione, come può essere anche attivarsi per non lasciare più alla buona sorte o alla speranza quella che è una responsabilità individuale. Quello che diceva il collega rispetto ai piani di emergenza vuol dire sapere che può succedere, cioè per quanto io possa avvertire una persona che c'è un pericolo, se questa persona non lo sente come possibile avrà anche poca attenzione. Se invece attraverso il sindaco io riesco a sensibilizzare la mia comunità sui problemi che ci sono, allora anche l'allertamento ha un valore e quindi si sente anche più capace di gestire. E poi purtroppo questi eventi in Italia stanno diventando ricorrenti, forse anche questo dovrebbe cominciare ad allertarci un po' tutti. Sì, sentiamo degli ascoltatori, ci sono anche delle mail molto belle, Nicoletta, che poi leggiamo volentieri. Abbiamo Davide da Vicenza e Danila da Udine. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno sì. A voi. Iniziamo con Davide perché poi abbiamo i mercati, ma Davide, grazie per averci chiamato. No, grazie a voi davvero. Io vorrei spendere, diciamo, un paio di parole rispetto a una tematica che non viene mai trattata quando si parla di queste emergenze, cioè l'emergenza dei beni culturali in questi frangenti di alluvione. Io sono stato volontario a Vicenza sia nell'alluvione di qualche anno fa sia nella scampata alluvione di questa estate, della scorsa estate. I beni culturali hanno un'importanza fondamentale che molto spesso viene messa in secondo piano e comprensibilmente in quanto le persone vengono prima. Però è incredibile come nei luoghi alluvionati o terremotati dove c'è un'alta concentrazione di beni culturali, il saperli proteggere in caso di emergenza comporta, come dire, una riattivazione della popolazione e anche dell'identità locale incredibilmente più veloce, a prescindere poi dai danni che sono stati creati. Mi spiego meglio. Ricordo che c'è stato un dispiegamento di forze quasi alla pari, tanto per proteggere le abitazioni, le case, i malati nel caso di Vicenza, quanto per proteggere il Teatro Olimpico, che è uno straordinario patrimonio dell'umanità. Davide, grazie Davide per questo spunto. Volevo solo leggere un messaggio di Andrea da Mirandola. Alla sera del 20 maggio mia figlia di un anno e mezzo vuole andare a dormire a casa sua. Ci torneremo forse tra 6 mesi. Il suo pianto di quel momento rimarrà sempre un dolore vivo. Cuore e denari. E siamo sempre in diretta, un saluto da Nicoletta Carbone e da Deborah Osciani, buongiorno a tutti. Affrontiamo il tema dell'alluvione in Sardegna dal punto di vista del cuore, perché vogliamo aprire i microfoni per raccogliere le emozioni, le sensazioni, i turbamenti, le paure, i ricordi che si attivano alla vista di questa immagine. Stiamo sentendo le voci, le testimonianze di chi ha vissuto esperienze simili sulla propria pelle. Arrivano molti messaggi anche al 349-238-6666. Dottor Cerri e il dottor Scotti sono qua in studio con noi per aiutarci a commentare i vostri interventi. Solo un messaggio di Leglio prima di presentare il prossimo ospite. Ci scrive: ho perso mamma, nonna, nonno e tutta la casa e le mie cose in una frana nel 77 a Serravalle. Gli amici e i volontari che ci hanno soccorso sono stati tutti per noi. Dottor Scotti, Leglio ha un'immagine, va indietro nel tempo e vede i volontari e quindi sottolinea un aspetto che aveva già anticipato la suor Luigia, la prossimità, quanto la prossimità sia stato per lui un balsamo al cuore. Abbiamo invece letto prima dei mercati il messaggio di Andrea di Mirandola, che invece del terremoto ricorda un'immagine dolorosa, il pianto della sua bambina che voleva tornare a casa e che non poteva tornare a casa. Due modi diversi di ricordare il trauma. Dottor Cerri, Scotti. Ecco, due modi diversi di ricordare il trauma che incidono anche su su come poi viene vissuto nel tempo questo evento. Leglio ci racconta di un ricordo che, per quanto doloroso, lo ha fatto sentire comunque accudito, e quando parliamo di volontari parliamo dei vigili del fuoco, parliamo della Croce Rossa, parliamo di tutte quelle persone che si attivano per prestare soccorso, che può essere anche il vicino. L'ascoltatore che racconta della sua bimba è un momento ancora difficile, che sente ancora nelle orecchie il pianto della sua bambina. In questo senso i bambini leggono l'evento attraverso gli occhi dei propri genitori, e quindi più noi come adulti riusciamo a rimandare al proprio figlio una situazione comunque di efficace, di riusciamo ad accudirlo, a stargli vicino, e più il bambino riuscirà anche a vivere in modo meno negativo questo evento difficile. C'è anche da dire, visto che il nostro ascoltatore vivrà, o così racconta, 6 mesi via, un invito può essere quello di rendere lo spazio in cui si sta vivendo comunque uno spazio confortevole, cioè far sì che il proprio spazio riesca comunque a rappresentarci, mettendo dei disegni della bimba, mettendo qualcosa che ci rende quello spazio in cui viviamo casa. Uno spazio confortevole, casa. E a proposito di case, per la ricostruzione naturalmente anche di tutto quello che è andato distrutto in queste ore in Sardegna, in questi ultimi giorni, e poi ricordiamo appunto tutto quello che è successo negli anni passati, di denari ne servono tanti, può apparire cinico, ma noi anche di denari parliamo questa mattina perché stiamo vedendo come si attiva la macchina degli aiuti. Allora, in linea con noi il prossimo ospite, il direttore di Vita, Riccardo Bonacina, che tra l'altro voglio ricordarlo, in passato è stato anche nostro collega, conduttore di Radio 24, della trasmissione Senza Fine di Lucro. Riccardo. Riccardo, eccomi, direttore, eccomi. Buongiorno, grazie ciao, di essere con noi. Ciao, ciao. Allora, sul vostro sito avete immediatamente documentato tutta la mobilitazione di tutte le associazioni coinvolte in questi aiuti appunto che si stanno dando in queste ore alla Sardegna. Questo paese avrà tutti i difetti del mondo, però in queste circostanze la mobilitazione è sempre notevole. Sì, abbiamo purtroppo una prova frequente di fronte a tutte le emergenze, che sia terremoto, alluvioni, la capacità di mobilitazione sia, diciamo, mettendo a disposizione energie, corpo e capacità professionali andando in loco, sia la mobilitazione, diciamo, tirando fuori qualcosa del portafoglio, è sempre, diciamo, una caratteristica pazzesca, no, del popolo italiano, e purtroppo è una caratteristica non valorizzata dalle policy di questo paese. Però insomma dobbiamo anche perché qualche volta comunque certo, direttore, questi gesti in ogni caso si fanno anche in silenzio, no? Non è che si mettono proprio a conoscenza questi atti nei confronti degli altri. C'è poi chi ha anche sempre il solito dubbio di come queste risorse che vengono raccolte in queste circostanze straordinarie vengano destinate. C'è Viola che ci scrive, per esempio, il gestore telefonico che fa pagare la commissione, ecco qua mi sono persi, il gestore telefonico che fa pagare il costo del messaggio in un paese di approfittatori e sanguisughe, la domanda mi pare legittima, giusto per sapere chi guadagna su disgrazia e generosità. Mi pare di ricordare che i gestori telefonici, come le banche di cui parleremo dopo, in realtà per queste operazioni straordinarie non facciano pagare commissioni ed altro, però giustamente è bene che appunto chi si attiva in queste ore lo sappia, direttore. Sì, sì, non, in questi casi non c'è il pagamento di commissione. Credo quasi tutte le banche italiane adesso, magari mi sfugge qualcosa, ma le banche in genere non fanno pagare commissione e neppure i gestori telefonici. Ne parleremo tra qualche istante. Tra l'altro, Nicoletta, abbiamo qualche altro ascoltatore? Abbiamo molti ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Bellissimi messaggi. Andiamo a Danila che ci chiama da Udine e poi a Francesco da Milano. Danila, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per avermi chiamata. Grazie a lei. Mia esperienza. 1965, il 2 di settembre e 4 novembre 1966. Per due volte la Tisana, che è un piccolo paese della Bassa Friulana, è stato esondato dal fiume Tagliamento. Sì. La prima volta, logicamente, non credi che possa esserci una tragedia del genere, quindi siamo rimasti a casa, però poi abbiamo visto quello che, come veniva fuori l'acqua e come cresceva in maniera così incredibile di ora in ora. Noi avevamo un negozio di elettrodomestici e ricordo che io, mio padre e mio fratello, dentro nell'acqua che arrivava alla gola, a portar via quello che si poteva, soprattutto quei televisori con i tubi catodici che erano spaventosi, pesantissimi, però la forza c'era, incredibile per allora. Questa è un'immagine che mi è rimasta perché l'acqua fredda, gelida, motta, la motta, il fango, l'odore che poi rimaneva nelle case di acqua sporca mista nafta. Un metro e mezzo, due metri e trenta. L'odore del fango lo stanno richiamando in molti altri ascoltatori che ci scrivono e ci stanno dicendo la stessa cosa. È terribile perché non ti va via. Nell'anno successivo, sì, quindi vi siete ritrovati nella stessa condizione, Danilo. In concomitanza dell'Arno a Firenze, stessa serata. Di nuovo sotto e anche più alta ancora l'acqua. Dottor Cerri, capita anche a voi i soccorritori? Sì, capita molto spesso anche a noi. E è chiaro che la preparazione di chi deve soccorrere è fondamentale, perché il soccorritore non deve poi diventare a sua volta un soccorso. Una vittima. Una vittima, esatto. E dall'altra parte il cuore dei soccorritori è talmente grande che danno tutto se stesso, come abbiamo visto anche prima da altri ascoltatori. È chiaro che uno cerca di veramente spendersi in tutti i fronti per aiutare le persone che in quel momento hanno o stanno vivendo comunque un momento di crisi. Qual è stato il suo momento difficile? Guardi, in qualche esperienza del passato. Ma in realtà, insomma, dalle esondazioni Po Ticino, dalle terremoto Umbria e Marche all'Abruzzo, al Molise, in realtà ci sono stati Sri Lanka, Haiti, cioè, ci sono stati tanti eventi. Ogni evento, in realtà, seppur ripetuto, è sempre diverso da se stesso. Ogni evento ti lascia comunque la drammatica situazione di quello che trovi quando arrivi in quel posto, il silenzio molte volte è peggio della visione delle case magari distrutte in un terremoto. Questo mi viene in mente ad esempio in Abruzzo. Vedi, dottor Scotti, il dottor Cerri sottolinea il silenzio, la nostra ascoltatrice sottolineava l'odore dell'acqua sporca. Ci sono proprio i sensi raccontano e intercettano, no, dei dettagli importanti che vanno poi a stamparsi nella nostra memoria. E costruiscono il ricordo. In questo senso mi allaccio anche alla domanda fatta al collega, perché nel mio caso c'è stato un momento difficile, che è la sensazione di impotenza sul soccorso, sull'aiutare le altre persone. E io leggo nei messaggi che questo è un vissuto che anche Suor Luigia rimandava. Ecco, quello che mi ha aiutato a suo tempo è stata la possibilità di dirmi di aver fatto del mio meglio rispetto a quello che mi capitava intorno. Quindi che uno sia una vittima piuttosto che un soccorritore, l'idea di aver fatto del proprio meglio è salutare, perché più di così non era possibile. Sì, possiamo coinvolgere ancora i nostri ascoltatori, volontari, vittime o le persone che come noi la stanno seguendo. 800 24 00 24, ci stiamo mobilitando, gare di solidarietà, ne parliamo tra poco. No, tra l'altro quello che vale la pena sottolineare è che magari questi eventi occupano le pagine dei giornali e anche i servizi dei radiogiornali e dei telegiornali per qualche giorno, magari i volontari stanno sul posto per qualche settimana, e però nell'agenda politica invece questi eventi scompaiono abbastanza rapidamente. Questo è il tema che affronteremo tra un po' con Riccardo Bonacina. Insomma, come si dice, purtroppo la meraviglia dura 3 giorni, ecco, questo non vogliamo che succeda. Assolutamente no, tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, stiamo parlando della tragedia che ha colpito la Sardegna e che richiama naturalmente alla memoria di tutti noi tutti gli episodi che in questi ultimi anni hanno riguardato il nostro paese, dove tra frane, smottamenti, alluvioni e terremoti, insomma, molto spesso la popolazione italiana è colpita da questi eventi. Allora, capita spesso che però dopo pochi giorni i riflettori su queste vicende si spengano, la catastrofe non fa più notizia, i problemi però restano perché la vita continua, e la vita continua anche là, nelle zone in mezzo a mille difficoltà. Riccardo Bonacina, direttore di Vita, come si fa a mantenere un riflettore costantemente acceso su queste aree le cui difficoltà appunto permangono poi per molti mesi? Beh, intanto abbiamo una responsabilità noi come giornalisti, quindi tornare periodicamente nei luoghi dove è stata vissuta un'emergenza, penso che sia un nostro dovere, no? E purtroppo non tutti i media lo fanno, ma voglio dire, non so quanti sono andati a rivedere cosa sta succedendo, come stanno messi in Emilia Romagna dove c'è stato il terremoto, o all'Aquila come stanno messi adesso. Bisognerebbe imparare a seguire le zone dell'emergenza anche a distanza di qualche anno. La seconda cosa, io credo che il decisore politico abbia qualche responsabilità, nel senso, è in discussione, sta andando in discussione dopo aver passato la Commissione Bilancio del Senato la legge di stabilità. Io penso che una legge di stabilità non può prescindere da ciò che avviene nel paese, no? Certo. Quindi sia per quanto riguarda gli stanziamenti sulla la situazione idrogeologica dell'Italia, che adesso come sapete c'è uno stanziamento di 30 milioni che è una cosa ridicola, si parla di una necessità di 300-500 milioni, e così come il tema della generosità che abbiamo accennato prima degli italiani che sono pronti alla mobilitazione, bisogna guardare a tutto. Riccardo, questo. Ti leggo questo messaggio di Marco da Modena, arrivato al volo. Qui nella bassa modenese i soldi degli SMS non si sono ancora visti, ditelo dove sono. Adesso magari può anche succedere che magari ad un abitante di un posto colpito da questi eventi non abbia notizia di come queste risorse vengano destinate, o è bene che anche l'ultimo degli ultimi lo sappia? Certo, e adesso diciamo su questa notizia faremo le nostre verifiche, come sapete c'è un commissario straordinario, si chiama Vasco Errani e lo interpelleremo. Se... Allora dateci notizia, possiamo dire esatto. Così, Riccardo? Se volete appunto certo. Denunciateci, segnalatecelo. Facciamo una cosa insieme a Vita appunto e mettiamo insieme un po' di testimonianze in negativo proprio per risvegliare ancora un po' la comunità su questi temi. Riccardo sta con noi e intanto io vorrei dare la parola agli ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Abbiamo Francesco da Milano e poi Mauro da Sondrio. Francesco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. Io ho 59 anni, sono un volontario di protezione civile del Comune di Milano. Ne approfitto per salutare il nostro ex direttore, il dottor Cerri, che tanto ha fatto per noi. E lo ricordo con affetto. Tra l'altro, Francesco, scrivono molti dei nostri ascoltatori dicendo che lei ha fatto un opuscolo sulla neve straordinario. Io quindi... non l'ho ricevuta a casa, dottore, quindi qua adesso contesto. Tu ce l'hai, Nicoletta? No, però ce lo faremo recapitare. Francesco, mi scusi, l'ho interrotta. Va bene, l'abbiamo salutato, ha fatto tanto, ma lei ci racconti di lei. Io ho fatto la mia esperienza, sì, io ho avuto l'esperienza dell'alluvione di Genova del 4 novembre 2011. Sì. E ancora adesso mi tremo un po' la voce e mi prende l'emozione, perché è vero, noi siamo formati e siamo preparati e siamo pronti a tutte le evenienze, però quando arriviamo sul campo e ci confrontiamo con quegli sguardi, sono gli sguardi della gente che ha bisogno, che mi hanno colpito e ancora io piangevo dentro a vedere quegli occhi, quello smarrimento di quelle persone, io lottavo con quel magone che avevo in gola. Allora con la mia pala tenevo lo sguardo basso e mi concentravo sul fango e spalavo. Quindi sappiamo piangere, noi piangiamo dentro noi volontari, nonostante tutta la preparazione che abbiamo, ma niente ti prepara ad affrontare proprio la disperazione delle persone che incontri. Grazie. Due cose mi hanno emozionato tantissimo a Genova. Lo sguardo fiero degli studenti della Liguria che arrivavano armati di scope, palette e venivano e chiedevano a noi cosa possiamo fare, diteci dove avete bisogno. E il secondo? Il secondo è stato la notte intorno alle 10, stavamo praticamente con l'idropompa liberando tre rampe di box e via dicendo. E tre ragazze dei piani di sopra a un certo punto ci hanno chiamato in modo discreto, potete venire qua, avevano cucinato tre pentole di pasta per e voi. Ci hanno offerto sul marciapiede. Grazie. Con l'odore del fango nel naso la pasta asciutta offerta da questi ragazzi. Grazie. Una pasta asciutta proprio donata di cuore che ha cancellato per un attimo l'odore del fango. Mi piacerebbe commentare con il nostro dottor Scotti la testimonianza di Francesco, dobbiamo farlo dopo il giornale radio. Intanto chiediamo agli ascoltatori, ospiti, tra l'altro sì, esatto, parleremo della gara di solidarietà, degli SMS solidali, insomma cuore e denari. Cuore e denari. Ed eccoci qua, sono le 12:10, ultima parte di Cuore Denari. Iniziamo con dare il benvenuto a un nuovo ospite che è con noi, il professor Marco Lombardi. Professore, buongiorno. Buongiorno, eccomi qui. Buongiorno. Professore di sociologia all'Università Cattolica di Milano e direttore scientifico della Scuola Superiore di Protezione Civile. Professore, noi ci sentiamo spesso quando ci sono delle calamità, Radio 24 chiama il professor Lombardi. Perché sarebbe meglio trovare anche altre occasioni. Troveremo un altro argomento per lei, professore. Ci andremo a prendere anche un caffè. Ecco. Ma professore, perché lei riesce a dare, occupandosi, essendo un sociologo, una lettura un po' differente? Leggiamo la Sardegna con il suo paio d'occhiali. Wow, è un bel tema, anche perché è più complicata per tanti versi la Sardegna, per quello che ne emerge. Se noi leggiamo quanto compare sui social, sui media, attraverso la televisione, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo. Che cosa è successo? È successo un cataclisma di tipo evidentemente ambientale, piogge eccessive, quello che ormai tutti chiamiamo una bomba d'acqua. Era prevedibile questo fenomeno? Mi lasci dire no nella sua forma, segue un percorso articolato. Assolutamente non in questa forma, era prevedibile un'allerta meteo, quello che è stato dato. Il vero problema di questi fenomeni è che i danni che conseguono un certo fenomeno sono solo prevedibili a livello locale. Intendo dire, non possiamo aspettarci per esempio che dalla Protezione Civile Nazionale non arrivi di più che un allarme meteo, magari rosso, di elevato livello, ma la competenza che poi valuta l'evento in termini di possibilità di danno, ma che cosa fa sul mio territorio, è una competenza locale, necessariamente locale, perché riapre il discorso questo che anche l'Arcivescovo ha messo in nota. È vero che piove tanto, ma piove tanto e si hanno questi danni perché per esempio una diga è stata fatta male, perché un ponte è stato fatto quindi male, la colpa è dell'uomo e non della natura, professore, è questo che ci vuole dire? La colpa non è semplicemente questo. La natura ci ha messo del suo, l'uomo ci ha messo del suo, alcuni uomini possono dare un'allerta, occhio che sta per capitare una pioggia così pesante, e questa era ad esempio la Protezione Civile Nazionale, altri uomini che sono quelli che governano localmente il territorio, sono gli unici che possono valutare che se quella pioggia prevista capita in quel luogo, i danni possono essere di un certo tipo e dunque è necessaria un'evacuazione preventiva. Professore, ma rapidamente, che cosa possiamo imparare dalla tragedia? Perché le esperienze insegnano, ne abbiamo parlato anche dal punto di vista psicologico, ma lei come sociologo? Prima cosa voglio dire che si parla troppo del fatto che l'esperienza insegna e in Italia finora non abbiamo avuto nessuna esperienza che ha insegnato, ma esperienze che hanno solo permesso di fare recriminazioni. Allora vorrei sul serio che si analizzasse il passato per migliorare il futuro, prendiamolo solo come impegno metodologico. La Sardegna da questo punto di vista ci dice che non possiamo alzare la mano per chiedere semplicemente aiuto, ma è necessario che le istituzioni dal centro alla periferia siano coordinate con livelli diversi di responsabilità. Mi spiace dover ricordare che il centro funzionale regionale che era previsto in Sardegna non è ancora stato costituito. E questo sicuramente è stato un vulnus nella meccanica di allarme che ne è conseguita. Dall'altra, dalla Sardegna abbiamo una conferma, l'incredibile catena di solidarietà che emerge. Infatti di questo, di solidarietà, infatti professor Lombardi, lei mi ha dato un assist magnifico, perché parleremo tra poco con i nostri esperti. Io so che lei alle 12:15 ha un appuntamento, per siamo cui puntualissimi. La lascio e spero di sentirla presto. Grazie professor Lombardi. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Salva Danaio. Eccoci ritrovati. Allora, naturalmente stiamo parlando della gara di solidarietà, anche della gara di solidarietà che si è scatenata in tutta Italia per aiutare la Sardegna, e abbiamo tante iniziative che sono già partite, tante istituzioni che hanno messo a disposizione molti fondi, e andiamo adesso a parlare anche di quello che stanno facendo le banche, perché come noi diciamo sempre le dipingiamo come cattive, le banche invece stanno dimostrando un grande cuore oltre che denari. E dove destinano questi fondi e come li stanno controllando ci facciamo raccontare l'iniziativa che è partita da parte di Unicredit. Buongiorno a Gabriele Piccini, Country Chairman di Unicredit Italy. Buongiorno dottor Piccini, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, buongiorno, eccoci qua anche da parte dei nostri altri ospiti che sono qui in studio. Avete predisposto un conto corrente dedicato naturalmente alla raccolta fondi per la popolazione sarda colpita dall'alluvione, ma quello che ci interessa sapere, dottor Piccini, perché l'avete fatto anche in altre circostanze, che cosa intendete fare poi con questo denaro? Sì, allora noi abbiamo aperto questo conto subito di solidarietà ieri mattina, no, per sostenere la popolazione colpita dall'alluvione. Questo diciamo conto l'abbiamo aperto in partnership con l'Avis della Sardegna, è un conto corrente diciamo dedicato, no, all'Avis della regione Sardegna, e diciamo ha proprio come causale sostieni la popolazione colpita. Su questo conto noi abbiamo subito attivato le nostre oltre 4.000 agenzie e tutti i nostri 40.000 dipendenti che sono sul territorio nazionale per proprio fare in modo che le donazioni siano copiute. rischiose. Abbiamo disposto anche una prima donazione nostra di 50.000 euro per avviare, e questi fondi verranno destinati in questo modo, no? D'intesa con l'Avis verrà costituita una commissione paritaria che valuterà le esigenze in modo tale da dare risposte concrete a chi, diciamo, ha più bisogno di emergenza, e l'obiettivo è quello di sostenere i progetti di medio e lungo termine in modo tale che questi ripristinino uno stato di normalità per le famiglie. Ecco, molte altre sue concorrenti hanno fatto anche altro, per esempio hanno dato la possibilità ai clienti sul territorio di sospendere il pagamento delle rate dei mutui. Anche, ecco. anche noi abbiamo fatto diverse cose, abbiamo definito un plafond subito di 50 milioni per le imprese colpite dal dramma a tasso agevolato, un tasso del 3,75 ai quali concediamo crediti chirografari a 3 o a 5 anni. In più abbiamo sospeso la rata dei mutui per tutti i clienti, sia per quanto riguarda le imprese e per quanto riguarda i privati, e soprattutto per le imprese, i nostri clienti, i nostri gestori stanno andando uno a uno in queste aziende per capire cosa possiamo fare per ripristinare la loro normalità. Normalità, quindi per sostenere anche la ricostruzione e la ripresa della vita in questi posti. Dottor Piccini, dobbiamo salutarla perché noi siamo affollatissimi di ospiti, abbiamo tante cose da raccontare, ma la ringrazio, e quindi per tutti gli ascoltatori che non sanno come fare a sostenere magari una piccola filiale di banca sotto casa, può dare una mano. Chi ci ha raggiunto qua vicino a me? Chi c'è? La nostra amica? La Valentina Furlanetto. Perché buongiorno. Qua con noi? Valentina? Perché Valentina ha scritto L'industria della carità, che è una grande inchiesta. Ho fatto male ad anticipare titolo del tuo libro. Io ti ringrazio per il grande. È un'inchiesta molto importante perché tu hai proprio un po' perlustrato tutto quello che è successo negli anni passati, anche quando ci sono queste grandi mobilitazioni appunto per delle raccolte fondi, per sostenere ovviamente delle buone cause, tu ti sei chiesta, ma vanno poi a destinazione? Che cosa hai scoperto? Per esempio, terremoti del passato. Hai citato anche nel tuo libro il grande concerto di Laura Pausini, se non ricordo male, di grande raccolta per L'Aquila, eccetera. Valentina. Sì, allora il mio libro è La nota dolente, no? Con questo io ci tengo sempre a sottolineare che non bisogna fermarsi nell'aiutare, però cercavo di dare delle istruzioni per l'uso che magari in generale possono essere valide sempre. Innanzitutto quello di affidarsi, nel caso chi sia in ascolto voglia donare alla Sardegna o altre situazioni, affidarsi a chi si conosce bene, a chi è trasparente, quindi pubblica il bilancio, e a chi si occupa magari del territorio già da prima, quindi anche per le Filippine vale, no? Che è stata una tragedia molto recente. Quelli che vanno lì all'ultimo minuto, che non si conoscono bene, che non pubblicano, improvvisati. Prima regola, trasparenti. Seconda grande regola, ogni situazione poi a sé ovviamente. Poi per i donatori privati bisogna anche stare attenti con la propria coscienza, a non spostare le donazioni sull'impeto dell'emozione anche, no? Se sto aiutando le Filippine, non è che adesso succede che in Sardegna allora sposto tutto, perché le Filippine hanno ancora bisogno, come con la Sardegna, dopodomani succederà qualcos'altro, anche perché le grandi macchine della solidarietà, le grandi onlus e ONG sono brave di solito a enfatizzare le tragedie e quindi a giocare anche su l'emotività delle persone con il marketing, chiaramente. Allo stesso tempo le piccole hanno altri problemi di sinergia, quindi alle volte si disperdono le donazioni. Quindi in linea generale questo. Mi sento poi di dire, perché ho già iniziato sul web un battage per donate, che anche la Protezione Civile ha detto state attenti agli sciacalli. Infatti qua noi abbiamo il dottor Cerri, è d'accordo? Sì, assolutamente sì, quindi ci sono dei canali preferenziali, quindi la prima appunto la Protezione Civile Nazionale, che apre generalmente un conto corrente unico e non fa grandissimo marketing, perché e non fa grande marketing, e coordina, perché a volte si fanno le stesse cose sullo stesso territorio, invece c'è bisogno di un coordinamento forte. Mi sentirei di dire poi, a proposito delle banche, che ognuno faccia anche il suo mestiere. Va benissimo che le banche si offrano, come in questo o altri casi, per sostenere magari partner onlus con radici nel territorio, e ma il blocco delle spese, eccetera, forse è più utile, o comunque è proprio di quel mestiere lì, quindi ognuno lo faccia bene. Sono arrivati molti messaggi dei nostri ascoltatori che ci dicono grazie per la puntata di oggi, così donerò per la Sardegna attraverso magari un SMS solidale. E vorrei, prima di sentire Valentina, chiedere al dottor Scotti: adesso donare è diventato molto più facile proprio grazie alla tecnologia, basta un messaggio, a volte l'importo è assolutamente a portata di mano, come d'altronde il telefono. telefonino, che è il nostro compagno di vita. Quindi non dobbiamo neanche più uscire di casa o pensarci troppo o fare tanti conti. Ma lei, come psicologo, non pensa che questa modalità abbia fatto nascere un nuovo tipo di solidarietà, la solidarietà mordi e fuggi, dottor Scotti? È una solidarietà che può e rischia a volte di risolversi in un SMS che fa acquisire 2 euro e in un certo senso mi rende solidale, ma nulla più. Quello che potrebbe essere interessante, oltre ai 2 euro, che è sicuramente un'azione importante che permette di attivare poi dei progetti, è la possibilità per esempio di sperimentarsi nel volontariato, che non vuol dire solo protezione civile, ma potrebbe essere anche negli ospedali o qualsiasi altra attività. Cioè pensare di poter investire parte del proprio tempo e in questo senso fare un'attività di aiuto. Questo aumenta anche le conoscenze e permette alle persone di migliorare la loro capacità di gestire l'incertezza attraverso appunto il volontariato, che spesso ha una formazione alle certo. spalle. No. Voglio leggere un messaggio che ci manda ora un ascoltatore. Parlate di tragedia, la terra trema, terremoto 11.38, epicentro Genova, sentito anche posso in provincia dire che l'ho di Pavia. Sentito qualcosa poco fa, ma ecco, non lo so. Abbiamo qua il dottor Cerri che non può, ecco, ma a volte c'è questo tam tam, che in questi casi che cosa si fa con questa notizia di... Ma sicuramente... Io la vedo molto tranquilla. Ma sì. No, beh, non ha sentito nulla. No, io non ho sentito non lo so, nulla. Deborah ha avvertito un... Io penso di sì, però adesso sto zitta perché magari veramente sono stata un po' condizionata da quello di cui parlavamo stamattina, ma non credo. Certo, però in queste situazioni è chiaro che ci sarà la macchina della protezione civile che starà facendo tutte le verifiche del caso, però purtroppo la terra trema perché abbiamo un'Italia che ha delle zone a rischio sismico. La consapevolezza del cittadino sta nel fatto, e quindi anche dell'ente locale, come diceva il professor Lombardi inizialmente, sta nel fatto di essere consapevoli del luogo dove si abita, del rischio o dei rischi che questi luoghi hanno, e quindi costruire in modo adeguato. Si stanno candidando molti volontari per la protezione civile, come li accogliamo? A braccio aperto ovviamente. Ma? Però non improvvisiamo. Però no, devono, in base alla loro città di residenza, devono andare presso il comune. Bisogna avere 18 anni. Bisogna essere maggiorenni assolutamente. E poi presso l'istituzione locale dove si va, o delle associazioni di volontariato anche specializzate, devono fare il percorso formativo adeguato, più step, diciamo, partendo da uno base e salendo. Il terremoto è stato confermato, intanto c'è una notizia che ci hanno girato adesso i nostri ragazzi. 2 scosse di magnitudo 3.1-3.8 sono state registrate alle 11.34 e alle 11.36 dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sull'Appennino Ligure, tra Piemonte e Lombardia. Gli eventi sono stati localizzati ad una profondità di 4,5 km, 5,4, interessate le località di Codevilla, Godiasco, Montesegale, esatto, tutta la provincia di Pavia. Riusciamo a sentire degli ascoltatori, Nicoletta? Sì, Adelaide, che ci chiama dalla provincia di Pisa. Buongiorno. Buongiorno a lei. Velocissima, Adelaide, che stiamo chiudendo, grazie, allora, ci scusi. Io volevo soltanto dire che ho vissuto per 10 anni in Sardegna, eravamo nel campo immobiliare e abbiamo avuto modo di notare, sia io che mio marito, che c'è una strana, un sistema sbagliato, quello di far sparire il fiume. Inizialmente gli fanno il letto in cemento, dopodiché li coprano sopra. E ecco, e Adelaide, lei ritorna su un tema che è già stato affrontato dal dottor Cerri, dal professor Lombardi, e quindi la natura fa il suo, ma l'uomo le dà una mano. La natura si riprende il suo più che altro. Gli dà una mano. Riusciamo a fare Mauro da Sondrio, che deve essere telegrafico per concludere. Mauro è un caposquadra dei Vigili del Fuoco, rapidissimo, grazie. Ok, se avete avuto la possibilità di registrare, questo è per gli ascoltatori, la trasmissione, in questa trasmissione è stato detto tutto quello che è la soluzione dei problemi. Ora, accennando a... Durante queste cose il problema è che pochissime persone si prendono la responsabilità, e accenno un risultato. Un sindaco in una località... Veloce Mauro, perché, che stiamo Mauro, salutando. Scusi, abbiamo 30 secondi, vada. Ecco, durante un pericolo di frana ha litigato con la popolazione per fare l'evacuazione, è quasi stato linciato. No, in realtà Mauro ne abbiamo anche parlato un po', perché è molto difficile quando si scatenano necessariamente questi allarmi prima che si trasmettano al, come dire, al, all'ultimo degli ultimi, come ho detto io prima, è molto difficile perché chi vuole abbandonare la sua casa, chi può credere ad una calamità così incredibile. Ricordiamo il titolo del libro di Valentina, che esatto, può essere utile in questi, okay, in questi momenti. L'industria della carità, mi sono ricordata male, grazie anche ai nostri ospiti, al dottor Scotti e al dottor Cerri. Benissimo, grazie, e noi ci sentiamo domani. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Cuore e denari.